domenica pomeriggio in compagnia di Radio ZM, bentornati e bentornate. Adesso scaldiamo i motori e ci prepariamo per questa diretta infinita. Sa. Ci siamo, ce la prendiamo comoda perché oggi è molto molto lunga. È una cosa infinita praticamente. Non finirà più. Io sento un cazzo di quello che dico, ma va bene così. Alzati pure in cuffia. Da qua ti sente, io non sento le cuffie. Oh, adesso mi sento. Mamma mia, che voce di merda. Tu Cico devi urlare. Ma di più. Sì, ma di più. Tipo ah! Chiudi che di là sta registrando però. Ascolta, anche qua stiamo registrando. Chi è che sta registrando tutti, cosa? Il dopolavoro Sadera. No, Tommaso Russi. Ah, l'attore Tommaso Russi. L'attore che adesso ci viene a trovare. Benvenuti, fantastico. Benvenute a Radio ZM Zona Rossa, Dez Amore. Amore. Spiegaci. Dai. Come spiegaci? Cos'è va questo Dez Amore? Cosa stiamo facendo oggi? Buttalo fuori subito, oggi? Guarda, cazzo, è insopportabile. Hai circa 3 minuti e 45. Vai. Ok, Dez Amore. Sì. È questa. Diciamo che è questo. Diaframma, spingi fuori la okay, pagina. Ok, proprio così lo tengo. Bravo. Allora, è. Sì. Un programma unico, diciamo. Per tutto ma anche il umido. Ma anche oggi, umido. Anche umido. Ma anche umile. Il pomeriggio di oggi in cui ci alterneremo un po' tutti alla pensavo radio. Dicessi cialtroni, in cui cialtroni. Beh, alla radio partiamo sì. Noi cialtroni. Bravissimo. Poi ci sarà bravissimo. Anche gente seria, ma sappiamo che sì. La serietà non fa per noi. Giustamente. E per tutto il pomeriggio ci alterneremo in radio con tutti i programmi del palinsesto. Quindi un pomeriggio pregno. E sulla parola pregno che... è tutto meraviglioso. Attenzione che ci scrivono dalla pagina Instagram, anzi alla chat Instagram, perché di velocizzare che cosa? Velocizzare, fare una prova. Velocizzare il fatto che oggi ci collegheremo con un evento serio, non come noi, esatto. Molto serio, che viene fatto qua dietro al Parco del Ticinello. Comunque esatto. Il Parco del Ticinello è una tappa di questo evento perché esatto. È una grandissima critical mass. Esatto. Quindi una biciclettata veramente esatto. Molto... Informiamo che il tuo credito sta per terminare. No, che cosa brutta. Sta per terminare, non è terminato. La cosa che dobbiamo fare adesso è chiamare Riccardo per cercare di capire se funziona il collegamento a fare con la cassa. E perciò chiediamo a questo punto al nostro assistente Norbacchio di aprire la finestra e vedere se funziona. Cioè, senti quello. Ciao Riccardo. Ciao Ricky. Non funziona, non ci siamo perché dalla cassa non esce il mio audio. Perché non esce il tuo audio? Chiamate me. Beh, qualcun altro manderà la radio sul dispositivo. Allora voi dovete chiamare qualcun altro. O tu mandi la radio? Tu mandi la radio quindi? Sì, io continuo a mandare la radio così non facciamo. Dacci poi i nominativi, nome, cognome, esatto. Indirizzo di chi chiamare. Il numero di Elio ce l'hai, Igor? Di Elio? Sì. Va bene, sì, dai, dovrei avercelo. Dai. Adesso se no me lo faccio dare in diretta. D'accordo. Va bene, grazie, ciao, sei inutile. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo, grazie. Ciao. Quindi un'altra cosa su cui vorremmo soffermare l'attenzione è, almeno personalmente parlando, il boicottare completamente la giornata di San Valentino perché noi l'amore lo festeggiamo ogni giorno in quanto leader del romanticismo, in quanto tale. In quanto tale, esatto. Abbiamo il massimo esponente del romanticismo. Sì, che adesso per adesso non parla, ma poi avrà un microfono, cioè il tuo, che gli cederai sì. Tutto per sé. Tapetarca, Leopardi, c'è cioè Norberto. Esatto. Inizialmente, sì, come esponente del romanticismo, sì. Però come Zona Rossa non vogliamo abbandonare le tradizioni, quindi iniziamo a chiamare, perché abbiamo delle telefonate da fare comunque oggi. Esattamente. Facciamo una telefonata di servizio a una persona che è qui con noi molto vicina, ma che ci serve. Non sei tu, Cico? No. No, per niente, questa volta non ci possiamo dispiace. Chiamare Cico al telefono, anche se sarebbe divertente. Perché è qua, purtroppo. Mi serve un numero di telefono, perché prima è stato nominato questo valido compagno di piano terra, tale Elio, di cui io però non ho il numero, quindi sto chiamando una persona per farmi dare il numero. Hai cambiato telefono che fa le foto così belle? Sì. Lo sapevo. Hai visto? Guarda. Hai visto? Ho fatto hai una i soldi. Bellissima foto. Ho fatto i soldi. Una bellissima Cico. Foto. Sì. Qualcuno riesce a pubblicarla su Facebook, dici? Alza un pochino. Chi parla al telefono? Uccell. Buonasera, Macio. Ciao, sei live on radio, ovviamente. Non ho capito. Sei live alla radio? Non è vero, perché la sento dal cortile, non so. Guarda che tra qualche secondo sentirai la tua voce, perché c'è abbiamo ritardo. 10 secondi di differita, più o meno. Ah, perfetto. Quindi preparati, tra poco ti esploderà il cervello, perché ascolterai te stesso in ritardo di 10 secondi. Esatto. Comunque sono un po' più di 10 secondi, vi avviso, così come specifica tecnica. Dovete refreshare il vostro dispositivo perché sono 10 secondi. Maledetto. Ascolta, la cosa era una domanda in realtà proprio di servizio. Mi servirebbe il numero di Elio, che lo chiamo dopo mentre sono in giro. Me lo mandi per cortesia? Certo. Grazie mille, gentilissimo. Figurati. Ciao caro, buona pedalata. Ciao Macio. Ciao Macio. questo è anche zona rossa, telefonate e favori, favori e telefonate. Tu hai un qualche favore a chiedere a qualcuno? Ma qualcuna? No, per adesso no. Per adesso no. Per adesso okay. No. Intanto vi ricordiamo che abbiamo una gustosissima chat su cui mandare messaggi, mandare video, foto, immagini. Adesso ne manderemo una noi, che è Mortala Cigo nei suoi pochi momenti radiofonici. La chat in questione è su Telegram ed è radiozama-chat. Vi ricordiamo che l'evento è ovviamente online. Se vi capita di passare per Milano Sud, dai, questa bella giornata di sole, un giro in periferia non ve lo volete fare? Io ve lo farei, sono qua stamattina. C'è anche Hank, quindi cogliamo l'occasione per stare distanziati magari al parco autogestito tra un bicchiere di vino, due chiacchiere, insomma. Questa musica morbida, questa musica morbida che c'è in sottofondo. Ma noi avevamo una sigla? Noi avevamo una sigla, io sto temporeggiando, intanto ci arrivano dei messaggi da tale Homo Ruderalis. Ciao amici, vi seguissimo. Bello, nel senso del condizionale. Mi piace anche il nickname. Vi seguissimo se avessimo voglia, ma invece non abbiamo voglia, quindi non vi seguiamo perché siete per me. Zona rossa pomeridiana, Madonna, ci citano. Noi volevamo questo, alla fine lo abbiamo ottenuto, stiamo diventando nazional popolari. Sì. E questo è importante. Speriamo anche nazionalsocialisti a un certo punto. Speriamo. Vabbè. Dopo facciamo un paio di telefonate alla redazione, giusto per rinfrescare. C'è la sigla, bravo. Dopo la sigla siamo tutti da voi, Dez Amore, Zona Rossa, inizia adesso. Cicognini, un commento prima della sigla? Dai, che non è un commento, però va sempre bene. Ma questo dove l'abbiamo trovato? Io non ma so. In realtà mi avete trovato... Ci vuole perdere. Vabbè, la sigla dura troppo per un momento così breve, perché Zona Rossa tendenzialmente fa 3 ore. No? Sì, sì, sì. Ci hanno confinato in 1 ora, noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo già spoilerato che probabilmente chiameremo, non si è sentito perché c'era la sigla bellissima, tra l'altro, troppo alta. Bellissima. Ringraziamo Cigo per le sue perle. Grazie, e per continuare a essere qua presente con noi. Quando e ci aspettiamo che la star lì di fianco emetta qualche vagito ogni tanto. Dopo quando un po', voglia, quando voglia. Finisce di fare la rivoluzione al computer, ovviamente. Esatto. Ma a questo punto la domanda è una sola: starà mangiando? Sarà già ubriaco? O che cosa? Secondo me è già ubriaco. È già ubriaco. È già ubriaco. Sì. Proviamo a chiamarlo, ma non da qui, da lì. Nel frattempo, qualcuno mi risponde per farmi capire in che situazione è messo. Allora chiamiamolo subito, dai. Chiamiamo. C'era il nostro intellettuale di riferimento. Sta facendo te, Norberto. Sta andando a fare la rivoluzione. Era un po' preso. Pronto? Oh, buongiorno Andrea, tutto bene? Tutto bene, ma siamo in radio? Certo. Chiaro. Già on air. Oh. Ah, ottimo. Sì, ma senti, ma ce lo fai sentire per chi è a casa e non ci crede che gli intellettuali stanno fanno anche lavori manuali, il colpo dell'accetta sul legno? Con un passamontagna molto bello, tra l'altro. Ah, mica, senti che accende. Il colpo del telefono sul legno in questo momento, aspetta. Mi sentite? Vai, vai, ti sentiamo. Ti sentiamo. Ma più che l'accetta sul legno, vediamo se riconosci questo. È una motosega. Attenzione. Senti come sgasa. Brum brum. Mamma mia. Questo lo sonorizziamo per la nuova sigla. Esatto. Andrea, stai che fa partire la motosega. Questo stavo facendo in realtà, purtroppo non con l'accetta, perché sono grossi. Già, ragazzi, sono belli massicci, gli assi di legno. E quindi, cioè, ti fai la legna per la tua bella stufettina di casa? Come sei messo? Per la mia bella? Stufa di casa? Sì, più che altro il freddo è arrivato adesso, sì. Quindi... Sì, cioè, oggi fa freddo, ci sono, boh, non lo so, non come a Milano, però fa freddo. E... quindi sì, è caduto, più che altro c'è stata una tormenta, quindi è caduto un albero su una casa qua di fianco, su un rudere, e allora sono andato a toglierlo e via, e me lo so preso. Storia. Ovviamente, anch'io voglio questi impegni quotidiani. Sì. Se vuoi puoi trasferirti da Andrea e fare il suo garzone. Sì, tra 6 mesi sono lì. Di giorno legna da tagliare, di sera antropologia. E un po' di radio. E radio. E radio. Radio. Va bene, caro, ma senti, dato che noi siamo... Vai, dici. Vai. Ah, ok. No, senti, ti volevo incastrare come mio solito. Vai. Ti volevo incastrare come mio solito, facendoti delle proposte veramente indecenti per radio, riassunte in 2 minuti. Mm-hmm. Praticamente quest'anno, per il ricordo di Dax, ci sono delle idee da fare in radio, che adesso ti spiega Cigo. No, niente, ha fatto la faccia della mucca che guarda il treno arrivare, come i tuoi studenti. Mi sono distratto un attimo. Che belle le mucche che guardano i treni arrivare. È presente, Andrea, quando fai una domanda all'esame lo studente è spiazzato, è come se gli avessi chiesto tipo di fargli analizzare una funzione matematica. Non tenta neanche di aggrapparsi al vetro perché non c'è vetro. Esatto, cioè, proprio... cade e vuole il vuoto totale. Scusalo, ma Cigo ha la concentrazione di un pesce rosso, perdonalo. È il motivo per cui ho lasciato l'università. Esatto. Compagni che infamano altri compagni. Dai, andiamo al punto, che poi Andrea c'ha da fare, la persona seria di tarla la legna, mica come noi. Allora, noi abbiamo pensato a 7 puntate da fare in radio che attualizzano il tema dell'antifascismo, secondo i classici antifascismo e anticapitalismo, antifascismo e antirazzismo, antifascismo e antisessismo, ma anche costruzione di comunità. Si parlava di meccanismi di controllo, tecnologia di controllo, e poi una puntata, diciamo, uno speciale finale, quel che racconta la storia di quella sera al San Paolo, scusatemi, davanti al Tipota, mi viene in mente della via adesso. E quindi tu eri stato pensato come necessario in tipo 9 puntate su 8. Adesso te la messo giù male. Usare la motosega sui fascisti. Bravo, bravo, facciamo uno speciale. Anche questo farà parte del trailer. Quindi a seconda di quello che ti piace di più. Non mi perdere ogni tipo di lavoro. Esatto. Giovane antropologo, sì, squarta i fascisti. Non violento. Sì, esatto, non violento. Ha detto, ha detto che ci sta. Ci sto, non 9 su 10, anche perché non, quei 3 ascoltatori che avete li perdete, se no, però comunque almeno 5 li possiamo fare. Oh, sei candidato su 5, Andrea, guarda che ti chiamiamo 5 volte al telefono, per fortuna non ti chiamo solo io, perché altre persone ti chiameranno e sono molto più simpatiche e intelligenti di me, soprattutto. Però, cioè, ti sentiremo per tante cose. Ti va bene? Ci stai? Dai, dai, scherzi a parte, smetto di fare l'idiota. Sì, assolutamente, è una cosa, vabbè, per ovvi motivi che, a cui tengo. E quindi sì, si può fare anche una cosa seria, anche perché caso vuole che ricorrono i 100 anni della nascita degli Arditi del Popolo quest'anno. Quindi attenzione, c'è questa ricorrenza. Che figo. Ma vai in giro a parlare del tuo libro? C'è questa ricorrenza. Ma no, nel senso che l'ho già fatto fin troppo, però uscirà una nuova edizione con più roba d'archivio, foto, copertine nuove, cose così, per appunto per il centenario, ma chi vuole se lo prende, nel senso tanto andare in giro a presentarlo poi in questo periodo storico è difficile, è abbastanza, diciamo. Però vabbè, in radio magari una cosa possiamo parlare, anche perché con Dax, insomma, quando io mi laureai sugli Arditi del Popolo, frequentavamo anche un collettivo assieme con Dax, quindi insomma è una storia che anche questa accomuna, anche se poi non è che dobbiamo trovare per forza i collegamenti. La cosa sicura è che quest'anno sono i 100 anni della nascita degli Arditi del Popolo, comunque. Già, già, molto importante. E comunque, per fare sempre mente locale su quanto passa il tempo velocemente, tra 3 anni saranno 20 anni dal 16 marzo 2003. Si pensa già al ventennale, ma noi da questa parte stiamo già pensando ai 20 anni. Incredibile, che l'altro ieri erano 10 anni. Decennale, oltretutto, esatto, ed era stato anche un bel corteo, una bella storia. E siamo al decennale di Carlo Giuliani. Esatto, ventennale. Ventennale. Ventennale anche a luglio. Ventennale, eh sì, a luglio. Va bene, il nostro intellettuale di riferimento ha detto sì. Ha detto sì. Sì, molto bene. Questa molto è una bene. Cosa molto bella, perché l'evento di oggi è Dez Amore. Poi c'è questo gioco di parole bellissimo. Ringraziamo Giulia bellissimo. Per l'idea. Dai. E un po' l'idea è quella di tirare in mezzo più persone possibili che siano interessate a fare qualcosa in radio. E ovviamente abbiamo pensato a te. Chiaramente. Grazie, grazie. Sono molto contento. Anche perché abbiamo saputo perché... che ci hai tradito. Sei andato in giro a parlare ad altre radio. Bravo. Bravo. Io avevo promesso che avrei parlato solo a voi, ma invece. Non abbiamo messo ancora il pulsante degli applausi. Esatto. Ci vuole il pulsante degli applausi. Esatto. No, oltretutto, facciamo un po' di. Condividiamo. C'è un altro posto meraviglioso che si chiama il Circolo Sole Baleno. Sì? Lo spazio Sole Baleno di Cesena, che è uno spazio autogestito da un collettivo. Che come avete fatto voi, insomma, si è inventato una radio. Storia. Già durante la prima pandemia, che si chiama Radio Iperico. Trovate tutti i podcast online, esattamente è la stessa tipologia di idee e di cose, con meno palinsesti in realtà, cioè loro fanno una sola cosa per tutti, tutti assieme, non si sono suddivisi perché magari sono anche meno di voi, però è molto interessante, fanno un sacco di cose, un sacco di interviste e anche un sacco di bella musica. Oh, evviva le radio libere, evviva. Molto bene, molto bene. Esatto. Beh, potremmo sentirli. Vabbè, poi nel privato magari ti chiedo i contatti, così anche se molto banalmente mandiamo qualche podcast che ci sta sempre. Condividere certo, le cose belle. Sì, sì. Ma poi stanno facendo appunto un sacco di robe. Sicuramente faranno anche loro robe sia su Dax che sul discorso Arditi. Quindi insomma, sono molto, molto attenti e molto attivi, soprattutto. Che figo! Si che possono figo. Fare unioni. Va bene, ma allora a questo punto, come al solito, dovremmo stipulare in diretta un contratto per cui tu, va bene, ok, fai queste 19 puntate verso Dax insieme a noi e noi veniamo a costruirti, che cosa? O a rifarti la sponda dell'orto? A sto giro vengo anch'io, però. Esatto, vieni anche Lorenzo. Come stiamo, sì, che lavori si fa? Ormai Lorenzo, mi dispiace, ma ormai sappiamo che sei un chiacchierone. Mamma mia! Quando mamma mi piazzerò mia. Lì per un mese. Senti, senti il giovane di opera che salta fuori. Prima sgasava con la motoretta, adesso senti che... Già... Un mese dopo, Lorenzo, scusa, se ne puoi andare per sono abbaione, Lorenzo, sono abbaione. Dai, questa che bisogna fare, mi piazzo lì col cane, vedi, mi piazzo lì. Vedi, niente, Gulli, c'è questa nuova, hai capito perfettamente la questione, vedi, la motoretta che avevo quando avevo 15 è anni, sostituita. Però adesso è sostituita dalla motosega, hai perfettamente ragione. Senti, Andrea, c'è un evento incredibile in radio. Buongiorno. Sei unita a noi una compagna che ha una giovanissima promessa, fa soltanto cose giuste, si chiama Buongiorno. Nicole. Saluta Andrea. Ciao Andrea. Non ti può sentire perché non ha le cuffie, però ti promettiamo che lei sarà una compagna che crescerà molto bene, in professionalità e capacità, puntiamo tutto su di lei. Perfetto. Esatto, meno male. Quindi deve smettere di frequentarti. Brava, bravo, esatto, bravo, assolutamente. Ma un po' tutti e tutte noi. Ma anche io stesso dovrei frequentarmi un po' meno, dovrei stare un po' meno con me stesso. Dai, ma veramente, dai, ultima cosa, poi ti lasciamo, davvero, cosa bisogna fare adesso a casa tua? Ma in realtà, visto che il lockdown si è prolungato, direi che ho fatto tutto, cazzo. Ho anche ristrutturato il piano di sotto. Vabbè, venite, cioè, compagnia, vabbè, compagnia. Facciamo compagnia. Sistemiamo i sentieri. Dai, bello. Dai. Va bene. Andiamo a farci il bagno. Dai, ci pensiamo. Ci pensiamo. I primi giorni di ferie che ci compaiono, pensiamo. Vediamo cosa succede. Attenzione, c'è cioè, anche che vuole intervenire. Va bene, Andrea, allora in privato ovviamente arriveranno informazioni più certe e puntuali riguardo alle puntate che vogliamo fare in radio, l'avvicinamento dell'anniversario di Dax, e basta, smettiamo di romperti le scatole. Salutaci Gaia. Grazie Andre. Ciao. Perfetto, ciao a tutti. Ciao. Che persona squisita. Dovevamo avere una bottiglia da stappare per questa bellissima notizia, perché abbiamo strappato un contrattino mica da ridere. Mica, vero, no? Grazie stagista, sempre merito tu. Grazie Cigo. Grazie mille. Ha parlato. Come in università, alla fine la domanda non l'avevo capita, non è che non sapessi la risposta. Allora puoi rispondere un'altra volta, così sponsorizziamo meglio la cosa che quindi faremo in radio. Ricordiamo che vai. A partire probabilmente già da settimana prossima, per due volte a settimana fino alla settimana prima del 16 marzo, ci saranno appuntamenti speciali in cui parleremo e daremo un nuovo senso alla parola antifascismo, declinandola nelle diverse sfaccettature che riteniamo più opportune, diciamo. Madonna, mi sono emozionato. Sfaccettature. C'è Norberto, ha detto sfaccettature. Guarda com'è rosso, si è emozionato. Grazie, per è meraviglioso. È comunque registrata. Io non commento, guardate cosa ha fatto il nostro compagno. Il nostro compagno è stato così furbo da fare questa cosa. Adesso, mamma 5 mia. Minuti di insulti gratis per il nostro compagno. Ma anche pagati, facciamoci dare un po' di soldi. Mamma mia, va bene, dai, andiamo lanciatissimi. Oggi niente pause, non c'è musica. Assolutamente no. No stop Team Brooklyn, come cantavano i Beastie Boys. E andiamo a chiamare quello che è sempre ubriaco. Dai, sentiamo se ha già bevuto. Sentiamo se ha già bevuto. È domenica, quindi forse è ubriaco da ieri. Sì, può darsi. È ubriaco da una vita. Tra l'altro, c'è questo aneddoto bellissimo. L'altro giorno Martina stava guardando una grafica che ho in camera e fa: ah, ma sì, questa l'ha fatta Francesco, quello che chiamiamo in radio, quello che fa parte della redazione. Lei non capiva. Faccio quello che è ubriaco sempre alle poste. Lui! La fama lo precede. Beh, o la fame, o la sete in questo caso. Ma no, non risponde, starà in botta ancora da ieri sera. Dorme. Niente da fare. La domenica pomeriggio per le persone così. Lui è sotto un po' cristiano. Esatto. Mica si riposa. Vino bianco, rosso, bravo. Poi bianco, poi rosso. Maledetto. Non mangia. Cico, un commento? Ma non saprei. Cioè, in realtà l'alcolismo... Io dopo il sale della vita, se fossi te, dopo tutti questi mesi mi sarei preparato un commento per ogni volta che ti chiediamo un commento a casa di notte nel silenzio assoluto. Questo non sarebbe zona rossa. Questo, bravo. Attenzione. Questo non sarebbe zona rossa. Attenzione, l'ha detto. Se non è che ti puoi usare, non so cosa facciamo. Faccio così e chiamiamo un numero a caso? No, beh, attenzione. Abbiamo anche una persona che volevamo chiamare, che è una delle mani che hanno creato questo posto, una delle persone che a livello informatico ci ha aiutato più di tutte e tutti. Ah, brava ragione, però mi hanno risposto. Aspetta, mi hanno risposto, quindi richiamiamo. A pressione costante. Buonasera. Tutto bene? Ubriaco. No. Ma veramente? Ho appena preso una birretta. La prima di oggi. Ma siamo in onda? Chiaro, certo. Chiaro. Ma ti chiamiamo mai quando siamo fuori onda, scusa. Infatti, che stronzi. Effettivamente mai, a parte la chat zona rossa in cui vi consiglio di entrare perché è veramente divertente. Livello altissimo. Tra l'altro, ciao, Francesco. Oltre a insultarmi, non mi calcolate. Tra l'altro, vedi, un mix perfetto di mobbing. Come la matematica. Ciao Francesco, amore mio. Ciao, no, vorrei essere con te in questo giorno speciale. Chissà quante persone te lo scrivono al giorno. Ma veramente, everybody loves Norberto. Noi stiamo aspettando ancora il programma radiofonico. Esatto. Tutti pazzi per Norbi. Tutti pazzi per Norbi, c'è già la grafica in testa. Va bene, ma quindi oggi è domenica, le poste sono chiuse, che cazzo fai? Ma dopo il gelo incredibile di ieri e la presentazione del libro in piazza al nuovo cinema Palazzo. Attenzione! Non c'era praticamente nessuno. No, veramente? Si girava veramente. No, sì, era un po' di gente. E ho oggi c'è un po' di sole, fa freddo comunque, però sono al forte, c'è la giornata aperta, un sacco di gente al sole a mangiare, a bere le birrette. Vedi, giornata aperta. E il Covid in quel di Roma non c'è? C'è la variante romana. Sì, eh? Quella che beve le birrette. Le birre. Esatto. Comunque una cosa, Francesco, è molto importante in realtà questo pomeriggio, perché è un pomeriggio interamente dedicato a chi ha delle proposte radiofoniche da fare, e noi abbiamo pensato a te, ovviamente. Quindi se tu avessi qualche passione a parte, potresti fare un programma sul bere. Sì. Tutti ubriachi con Francelli. Bellissimo. Che è la succursale di tutti i pazzi per Norbi, no, esatto, va dopo. Esatto, insieme, esatto, sei in combo, esatto. Che bello. No, ma tranquillo, spacca pure la porta. Scusa, c'è uno stagista che sta frantumando la porta. Non siamo in diretta, porta, esatto. Cico, non ti preoccupare. Muro. Lo tolgo, no, in post-produzione. Si può vedere ogni tanto, quindi. Sì. Ogni tanto. Tutte le volte che tu sei sobrio, lui c'è. Vedi tu quanto c'è. Ma qui intanto arrivano cuccioli di cane, ospiti, gente bellissima. Mi sto sciogliendo. Adesso vi mandiamo una foto e prenderemo un sacco di like. C'è di tutto. Ciao Mauri. Ciao Gaia. Ciao Meme. Non ho capito come si chiama lui invece. Scar. Che carino. Il cane si chiama Scar. Non fatelo vedere all'altro cane, perché sennò è un casino. Volete salutare in diretta il compagno Francesco da Roma? Aspetta, solleviamo il microfono per loro. Vai, salutate. Bella France! Arriva? Direttamente dalla Barona. Bella France! Arriva? Che è fortissimo sto ragazzo. From Barona to Rome with giustamente love. Giustamente si chiedono, ma Francesco chi? Ma Francesco, ma chi lo conosce Francesco? È quello lì che fa i disegnetti da scemo. Intanto ampliamo lo spazio in radio dai 120 metri quadri che erano prima, ora sono 160. Esatto. Puoi togliere quel cartongesso, esatto, lì, così ci stanno anche gli altri. Esatto, sì, scoperchi la stanza. Il cavo, non tirarlo troppo perché 16 metri sono già finiti. È arrivato Paul Kalkbrenner che ha sbagliato dall'altra puntata. Paul, vai. Scusa Francesco, noi ti chiamiamo ma non devi parlare. Esatto. Stiamo parlando noi. Stai lì e non rompere gli occhi. Cos'è che hai detto, scusa? No, stavo dicendo che possiamo dare un senso a questa telefonata prima che arrivi nuovo. Sì, parlaci del fatto che hai presentato sto libro. Cioè, tu che c'hai la super mega cosa, e diccela. Quindi cosa? Che super mega cosa? La presentazione di ieri. Vedi cosa. Vabbè, faceva freddissimo davanti al cinema palazzo, c'era vento che spostava qualsiasi cosa, quindi la mostra non l'ho fatta perché era impossibile da fare. I libri, quasi anche quelli, volavano. Certo. Minchia. Madonna, tornato, sì. Bene, ma non benissimo. Vabbè, ho capito. Allora, se vuoi dare un senso a questa puntata, ti facciamo. Beh, certo, ovviamente vi siete ubriacati. Il senso di questa puntata è cose completamente a caso, come Zona Rossa vuole che sia. Io avrei una domanda in stile Zona Rossa da farti. Vai. Visto che facciamo tanto quelli belli e belle e bellu che boicottano San Valentino, io in primis, però magari nella vecchia vita o in una vita passata hai ceduto al commercio di un pacco di cioccolati. Insomma, voglio sapere se hai regalato qualcosa per San Valentino. Al commercio del sesso, no. Pensavo al commercio dell'amore. È proprio Zona Rossa alle 2:21 di pomeriggio. E a parte quello, che ce lo racconti poi più tardi. Esatto, è in zona molto rossa. E c'è mai stato l'evento in cui tu hai fatto un regalo a una persona, ovviamente in chiave sentimentale, per San Valentino? No, per San Valentino no, perché anzi, in realtà io mi sono reso conto che San Valentino, dopo aver chiesto alla ragazza di uscire oggi, senza rendermene assolutamente conto, però vabbè. Quindi San Valentino inconsapevole? Sì, esatto. Però no, a me piace regalare i fiori, che è una roba che in Italia in realtà non si fa troppissimo. Dovresti passare a Milano. Mentre in altri paesi si fa. No, davvero, la gente non regala tanto i fiori, ma così per sport, dico, nel senso, senza che ci fossero strane occasioni di mezzo, fossero, non so se è il verbo giusto usato. Tu non ti preoccupare, vai avanti. Ti esprimi con le grafiche, non ti preoccupare, tu disegni di lavoro, non parli, quindi va bene così, dai. Esatto. Qui ha fatto una domanda a Francesco. Niente, no, io regalo i fiori, però quando mi va, no, giusto, giusto, come noi che siamo romantici tutto l'anno, non esatto, soltanto oggi. Io non lo sono, esatto, mai, a detta di Norberto, io non sono mai romantico, sono, però. Ma tu non ti preoccupare, poi il collettivo fa la forza, quindi okay. Fai parte anche te dentro il romanticismo. Grazie mille. Non ti preoccupare. Bene, quindi Francesco, grazie, che dire, è stato molto molto intenso, come sempre. E ti richiameremo più tardi, perché ovviamente qua andiamo avanti fino a tardi. No, non richiamatemi più tardi, sarò in dolce compagnia. Ah, sarà in dolce compagnia. Ma quindi ha detto di sì. Ha detto di sì. Oh cazzo, ma non ce l'hai detto. Ti vedeva in faccia mentre le parlavi o una roba al buio? No, no, c'era il consenso, non mi preoccupate. Ah, ok, ok, ok. Beh, importante. Va bene, fantasticissimo tutto, meraviglioso. E a questo punto, dai, ti diamo la possibilità di scegliere un brano musicale, solo perché finalmente esci con una compagna. Per finta. Cosa? Per davvero o per finta? Sì, dai. Dai, questa volta la puoi scegliere davvero. Però è una roba trovabile. Cioè, è che noi abbiamo una grandissima collezione di vinili originali, tutti. Guarda, io direi Canzone arrabbiata del film D'amore d'anarchia, perché è il giorno giusto. Canzone arrabbiata del film D'amore di Anna Melato. No, non l'ho mai visto. Bellissimo, lo consiglio. Tra l'altro c'è uno spin-off. Non l'hai mai visto? Mai visto. C'è uno spin-off che partirà tra breve, che vergognati. È una succursale di Zona Rossa dedicata interamente al cinema. Sì. Ne abbiamo parlato, indovina chi ho tirato in mezzo? Ah. Che ho tirato in mezzo? Il buon Giulione. No, ma ragazzi, una puntata in media con Giulione dura 6 ore. Ebbene, io ho studiato anche cinema nella vita. Allora entrerai anche in quella redazione, in quella succursale lì, perfetto, ci fai le grafiche. Certo, ho tutta una bella sfilza di film mezzi sconosciuti da proporre. Attenzione, ma Francelli è senza, cioè, è su pezzissimo. È veramente un pozzo senza fondo di idee. Sì, anche in un altro senso, pozzo senza fondo, ma va bene così. Carino, così posso lanciarlo così, no? Certo, senso. Assolutamente. L'uomo che uccise Adolf Hitler e poi il Bigfoot. Minchia. Segnato. Minchia, che livello. Filmone... trash, perché è trash. Beh, però ho fatto di Cristo. Ma scusami, ma Iron Sky cosa ne pensi? Ma il primo o il secondo? Il primo, il secondo non l'ho ancora visto. L'abbiamo trovato, vedi. Del 2018. Bene, lo prenderemo in considerazione. Grazie mille per la proposta. Intanto penseremo. È arrivato il vinile che ci hai chiesto di Anna Melato. E che dire, Zona Rossa tutta per te. Buon pomeriggio. Ciao Francesco. Ciao Fra. Ciao. Per chi non ha fortuna, ciao. Canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, che sporcherà la verità. Cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente. Zona Rossa non si ferma, va avanti. Oggi invece ci ritroviamo in un'altra zona della città di Milano, nel quartiere sud, nella periferia sud. Stiamo trasmettendo in diretta l'intervento dalla Critical Mass, che toccherà il Ticinello, il San Paolo in questo momento, poi il Ticinello. Comitati di lavoratrici e lavoratori, comitati di difesa territoriale, che si stanno battendo e stanno affrontando quello che è il disastro ecologico e sanitario che stiamo vivendo non da un anno ma da molto più tempo nel territorio metropolitano milanese e lombardo. Un disastro sanitario ed ecologico che la crisi causata e accelerata dal Covid-19 ha reso drammatico in tutte le sue conseguenze. Se il 16 dicembre scorso, quindi, eravamo partiti dalle vasche di laminazione di Bresso, le vasche dei veleni, come le chiamano i comitati degli abitanti dell'Interland Nord, che dovrebbero risolvere il problema dell'esondazione del Seveso, e invece sono l'ennesima misura emergenziale che andrà soltanto ad accumulare veleni e materiali tossici che danneggeranno ulteriormente la qualità della vita delle persone di quel territorio. Se il 13 dicembre eravamo poi passati davanti all'ospedale Niguarda e poi all'ex scalo ferroviario di Farini, beh, oggi invece ci ritroviamo qua davanti all'ospedale San Paolo, uno dei due poli sanitari che negli ultimi mesi hanno portato avanti con più forza la protesta, soprattutto di chi si trova in prima linea da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, le operatrici e gli operatori dell'ospedale, che hanno denunciato con coraggio e con forza le conseguenze della direzione, delle scelte della direzione aziendale, dell'ATS, che fanno parte di un sistema che è stato chiamato e proclamato negli anni come dell'eccellenza lombarda e che invece ha dimostrato tutta la sua feroce selettiva in quest'anno. Una feroce che ha imposto la scelta tra chi salvare e chi no. a chi comunicare che i propri cari si sarebbero potuti salvare e chi invece si è trovato la notizia e questo non sarebbe stato possibile. Beh, oltre a questo, oggi incontreremo anche altri comitati di lotta dei territori della periferia sud, comitati del Ticinello, il comitato del quartiere di Piazza Abbiategrasso, fino poi ad arrivare anche all'ex scalo ferroviario di Porta Romana. Queste tappe sono significative, le prime, perché rappresentano e raccontano ancora una volta l'opposizione a uno dei progetti, a uno dei tanti progetti di greenwashing che si spacciano per ambientalisti, per verdi, da parte della giunta Sale, che invece vanno a devastare ulteriormente un territorio che già sta pagando un altissimo prezzo in termini di consumo di suolo e di qualità dell'aria tra le peggiori non d'Italia ma d'Europa. E insieme anche l'ex scalo ferroviario di Porta Romana, che racconta ancora una volta un pezzo di città pubblica che viene privatizzato e svenduto, in questo caso per le operazioni speculative in vista di un grande evento che è quello delle Olimpiadi Invernali del 2026. Beh, noi cercheremo di raccontare invece come tutti questi territori, tutte queste vicende, queste lotte sono collegate, che c'è un'emergenza sanitaria, che è anche emergenza ecologica e che le due si tengono necessariamente insieme e che è necessario che tutte le vertenze aperte sul territorio di Milano si parlino, si raccontino e facciano rete l'una verso le altre per rinforzare un fronte comune che possa parlare e reclamare una giustizia sanitaria, una giustizia climatica ora, non per il 2050 come invece vuole e programma il piano aria clima del comune di Milano voluto da Sala. Noi vogliamo che si metta fine alle menzogne e ai falsi progetti ecologici d'emergenza. Noi diciamo che adesso è possibile trovare una soluzione, lo dobbiamo fare in questo momento, perché la crisi del Covid purtroppo non passerà passata l'epidemia, andrà avanti, le sue conseguenze le continueremo a pagare e soprattutto le ferite aperte sul territorio e nel sistema sanitario ci rivelano che questo problema non è chiuso, non è limitato nel tempo e non è limitato solo all'emergenza sanitaria attuale, ma rischia di protrarsi e di peggiorare radicalmente la qualità della vita di un territorio, quello metropolitano milanese, che come dicevo prima è già tra i territori che nonostante quello che dice Sala, quello che ha dichiarato negli ultimi anni, ha invece la qualità della vita peggiore e non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche sociale. E quindi noi oggi, questa è un'altra tappa dopo appunto la crisi calmarsi il 13 dicembre e auguriamo a tutti, adesso stiamo aspettando gli ultimi comitati, gli ultimi compagni che arriveranno qua per unirsi a noi in questa critical mass che in condizioni di sicurezza però toccherà e passerà da tutta questa serie di punti e di lotte aperte per sostenerle, raccontarle e rinforzarle l'una con l'altra. Grazie. Siamo tornati adesso live dopo aver ascoltato l'ottimo intervento di Elio. Scusate, mi devo alzare il volume perché qua stiamo sparettando malamente. Abbiamo ascoltato l'intervento di Elio, un compagno della Critical Mass che è in corso tra vari punti nodali e fondamentali e strategici della zona sud. Oggi la Critical Mass toccherà il San Paolo, toccherà il parco del Ticinello, il benzinaio di via dei Missaglia e poi non mi ricordo più. C'è un quarto punto, ma lo sappiamo. C'è un quarto punto. Nel frattempo c'è uno smercio di caffè molesti e un'altra compagna che è venuta per fare radio. Lo scalo ferroviario di Porta Romana. Lo scalo ferroviario di Porta Romana, giustamente. Ciao Chiara, vuoi salutare al microfono in diretta da Zona Rossa? Ciao a tutte, tutti, tutto. Ciao. Basta. Ciao, l'abbiamo messa abbastanza. Oh, la giornata aperta sta funzionando comunque, eh? Prego. Perché è agile, perché è giovane, vada pure a posizionarsi. Sta funzionando alla grande, noi dai 160 metri quadri di poco fa siamo arrivati 220. A 220, esatto, grazie Guillermo. Troppo lontana, vieni qua, prendi la sedia, muoviti al microfono subito al microfono. Visto che ci rimane poco meno di mezz'ora, io andrei subito a presentare quella che è l'ospita, una delle ospita della puntata. Mi devo presentare io, mi butto. Aspetta che facciamo uno switch microfono, adesso vieni qua perché sennò non si può fare con quello. Cambiare microfono vuol dire anche cambiare cuffie. Nel frattempo, Chiara, come stai? Tutto bene? Eri venuta per fare qualcosa? Però devi parlare nel microfono, sennò non si sente la mazza. Tutto bene, sono venuta qua per la vostra fantastica giornata aperta, molto bello, c'è il sole, bella giornata. Ha già detto più parole di Cigo. È già pronta per fare la radio. Ha già detto più parole di Cigo e anche dette meglio. Fantastico. Grazie Cigo. Sì. E qua è una meraviglia arrivare qui, effettivamente. E trovarsi catapultati nella radio. Vero? Che meraviglia, che meraviglia. Nella nostra. Va bene, cara. Allora tu avevi un programma in mente, adesso ce lo racconti. Ce l'avevo con te, eh? Ah, parlavo di schiena perché devo girarmi. No, no. Ce l'ho con te, ce l'ho con te. Io avrei un programmino in mente che si chiamerebbe Radio Margine. Però, cioè, se un programmino solo mio, non saprei come gestirlo, sono sincera. E quindi alla fine ho pensato che ho bisogno di altri artisti, artistu che facciano questo programmino con me. A me piacerebbe parlare in questo programma di tutto quel tessuto culturale che siamo noi giovani artisti nella nostra città o nelle nostre periferie e in giro per il mondo. Però chiaramente lo stiamo facendo in radio, quindi vorrei che, diciamo, la radio fosse proprio lo strumento per comunicare e non soltanto dire alle persone che cosa stiamo facendo. Anche perché da studentessa libriera che ha iniziato l'accademia durante il Covid, diciamo che si è sentita molto la mancanza di un confronto fra persone con cui collaborare e con cui realizzare appunto la propria arte. E quindi che si fa? Sarebbero 90 minuti di radiodrammi. Di radiodrammi nel senso di, cioè, pathos nella radio, viene distratta con delle note tecniche. Quindi sono 90 minuti di radiodrammi nel senso di cuori spezzati, storie tristi, e gente che muore, questo sono lì. Non necessariamente, non necessariamente, cioè, okay. Ci sarà anche del grottesco, del satirico. Ok. Però... è proprio un genere, cioè il radiodramma è proprio un genere, che bello. Sì, sarebbe da rielaborare, ma appunto per questo ci sono dei drammaturghi molto più bravi di me a gestirla insieme. E la cosa che ci piacerebbe raccontare sarebbe appunto un percorso fatto insieme da artisti sempre diversi che parleranno in radio e appunto le persone che ci ascolteranno e a loro volta parteciperanno più avanti al programma stesso. Però non solo attraverso il radiodramma, perché succederà anche con la musica. Vogliamo appunto le musiciste, i musicisti che... appunto producono da una vita, ma troppo spesso non hanno spazio di appunto banalmente pubblicare i propri brani senza essere detto esposti. In maniera tecnica nessuno se li caga proprio, esatto. Cioè, parlando di tecnicismi, e oltre a loro chiaramente anche lo scrittore e che appunto faranno parte proprio del team radiodramma tutti insieme appassionatamente. E l'ultima parte invece sarà un rincontrarsi fra persone che fanno arte, ognuno a modo suo. E quindi le interviste all'artista o agli artisti, alle artiste, nel caso in cui siano gruppi. E chiaramente prima ci sarà una presentazione dell'arte e banalmente del percorso artistico del singolo. E poi ci piacerebbe parlare invece della società che ci porta a fare arte e quindi parlare appunto di città, di periferie, di distanze, di genere, di capitalismo e della situazione appunto che viviamo tutti i giorni e che, diciamo, e qui mi ricollego al nome della radio, perché Margine, perché ho quasi l'impressione che dal margine anche di questa situazione pandemica, non vedere le cose appunto nel centro delle dinamiche, però ci abbia dato tanta capacità di vedere che cos'altro si può fare e niente. E questo vuole essere uno spazio artistico appunto collaborativo di comunicazione per poterlo fare. Oh, ma Lorenzo, cioè, io sono in lacrime. Ma dicono, cioè, e fanno tutti cose più intelligenti di noi, è incredibile. Cioè, sì, devastante. In questo caso abbiamo veramente una preparazione da dosare. Fantastico, sono veramente contento. Colgo l'occasione sia per dirlo a te personalmente, ma per dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Nel momento in cui venite a proporre un programma, non dovete essere capaci a fare la radio, perché avete delle persone qua che vi aiuteranno. Sicuramente che vi seguiranno in presenza per le prime puntate, che poi ovviamente va trovato un ruolo tecnico all'interno di ogni programma, è consigliato, semplicemente perché quello che facciamo noi a Zona Rossa è una cosa abbastanza tipica, però farsi la regia mentre si fa il programma è molto complicato. Non deve spaventare, perché il software in realtà è abbastanza banale da usare. Però sapete, anche voi ascoltatori e ascoltatrici, che se volete proporre un programma qua avete anche spazio per imparare a usare gli strumenti, che non sono complicati da utilizzare. Poi l'altra cosa da ricordarsi è che quando diventerete famosi, famose, famosu, dateci dei soldi, ricordatevi dove venite, perché sennò cioè, siete, non va bene. Ma infatti spregevole. Dal margine per prenderci il centro e riportarlo al margine. Oddio, esatto! Ma è bellissimo! Chiudi tutto, Lorenzo, basta, usciamo noi, lasciamo loro. Veramente un sacco di punti oggi, siamo esatto. Molto contento di questa cosa e andiamo avanti. Cigo, un commento? Mamma mia, che palle questi commenti. Cigo, sei stagista? Sei stagista, devi dire un commento. La difficoltà è proprio formulare il commento. Comunque è una gran figata, devo dire. Da volendo essere un futuro lavoratore dello spettacolo. L'ha detto. Lavoratore dello spettacolo, approviamo. Ci sono anche gli altri lavoratori dello spettacolo, perché c'è l'attore Tommaso Russi che presenzia spesso. Vero. In Zona Rossa. Cazzo, Tommaso. Prendere, bravo, lo picchiamo male, lo lasciamo lì. Quanti minuti ci sono rimasti? 19. Diciamo. In tutto questo ci arrivano dei messaggi alla chat, perché abbiamo una bellissima chat. Vai Gaia, smanetta, inizia a imparare come fare a bestemmiare. Telegram web, esattamente. E cosa ci dicono? Si è chiusa la chiamata perché forse vogliono farci porca la miseria. Allora via, lo chiamo io. Prova a chiamare te, ma nel frattempo che io smanetto col telefono, dato che sono un maschio, non riesco a fare due cose contemporaneamente. Prego Chiara, faccio un commento. Ciao Chiara. Ciao ragazzi e ragazzi. Parlo al microfono. Noi siamo vicini. Sì, ciao ragazzi, ragazze. Mi sembra un programma veramente molto interessante. Più che altro in questo momento in cui tutto il mondo della cultura si è davvero fermato, sia scuole ma anche che erano fermate, ma anche musei, teatri, cinema. È veramente importante comunque trovare altri modi alternativi e insomma essere noi l'alternativa. In città. Tutti fanno commenti meglio di Cigo, è devastante. Cioè, anche Chiara, primo commento, già tutti stesi, grandissimo. Grazie Chiara. Vuoi il caffè per caso? È arrivato un caffè un po' in su. Bene, tutto sta suonando il telefono. C'è un cambio postazione. Io metto le cuffie di qua. Cigo, vieni, come al solito, tranquillo. Non ti preoccupare, va tutto bene. Grazie. Facciamo tutto noi, Cigo, tranquillo. Cioè, chiusa la telefonata. Ciao Riccardo. Pronto? Eccoci. Ehi. Dicami. No, dicami tu. È scritto. No. Cioè, dovevi fare un altro intervento? No, basta. Ah, ok. Questo era il primo, avete sentito io, avete sentito il comitato. Sì. E adesso fra poco partiamo da qui e ci avviamo verso il benzinaio. Hola. Bravo Riccardo, com'è la temperatura lì fuori? Quanta gente c'è? Temperatura è calda, ci sono un trentina, quarantina, forse cinquantina di persone. Addirittura? Tutti biciclettati? Tutti biciclettati. Fantastico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di Gossini appiedati. No, in macchina. Di corsa. Mica complimenti. Che fiato. Macchina, chiaramente. E niente, abbiamo messo qualche striscione, tutto in bici, tutto molto bello. Bello, bene, fantastico. Ci sentiremo presto. Adesso noi passeremo il testimone tra non troppissimo altri programmi della programmazione radio. Speriamo che anche loro chiamino. Tu giustamente continua a scrivere sulla chat, che ovviamente esatto. Se perfetto. I nostri speaker devo chiamare Bulli, immagino. No. Segui la scaletta. Oppure cambiare la persona. No, tu in realtà scrivi sulla chat, vedi chi c'è in radio, chi ti risponde. E magari chiamano loro te. Esatto. Mi complicate tantissima la vita, grazie, va bene. Tu guarda che tu sei bravo perché sei ingegnere. È una bella domenica ingegnere. Di sole. Hai assolutamente ragione. Comunque noi finalmente abbiamo dei giovani che valgono qualcosa, perché Cigognini, non lo so. Sono Gaia e Chiara, che sono due compagni che proporranno cose differenti alla radio, ma tutte molto interessanti. Le vuoi salutare, Riccardo? Ciao, Gaia e Chiara. Chiara. Grazie. Ciao, Riccardo, compagno, è stato bello. Ciao Riccardo, a dopo. A dopo. Dai, non che ci voglia troppo a dire cose più interessanti di quelle che dico io. Obiettivamente diciamo che non sono proprio bravo a stare da questa parte del microfono. No, ma un bagno di umiltà ogni tanto fallo. Esatto. Non ti devi nascondere dietro questa cosa qua, perché altrimenti non farei mai nulla. Devi uscire da questa cosa. Dai, tu sei una persona che vale. Non sono bravo con le parole. Tu sei lo stagista di Zona Rossa. Esatto. Noi pensi che siamo bravi con le parole? Ma quando mai? Ma che cosa? Cioè, sono le parole. Ma dove? Facciamo una puntata sulle parole. Vedi, sei un genio. Facciamo vedere le parole. L'hai lanciata. C'è da dire che a giudicare dagli impegni che abbiamo. Volevi dire qualcosa? No, perché sentivo una cosa. Cioè, a giudicare dagli impegni che abbiamo in radio, la prossima puntata di Zona Rossa è tipo dopo marzo. Perché tu devi fare un programma la settimana prossima. Io devo farne due tra tre settimane. Però la presenza aleggia nell'aria. Sì, sì, sì, sì. In realtà c'è una sorpresa che sta per essere prodotta, però di cui non vi parlo. Ah, ma tipo Cigognini in radio da solo, due ore Cigognini a braccio? No, il best of di Zona Rossa. Oh, Madonna! Oddio! Chiara, un commento? Shock. Shock. Grazie. stesi. È entrata siamo dentro la redazione immediatamente. Gaia, devi impegnarti di più perché queste, complimenti. Chiara entra in redazione tra 5 minuti, adesso, ti inseriamo nella adesso, chat. Ma Chiara, adesso però sinceramente, te hai ascoltato Zona Rossa? Sì, e se devo anche dire la verità, una bella chiamata me l'aspettavo. Attenzione! Ma la, non avevamo il numero, non avevamo il numero. In realtà, in realtà devo dire che ci arrivano anche degli altri messaggi che prima o poi, quando avremo un social media manager che vale, esatto, verranno pubblicati, esatto, perché la settimana scorsa abbiamo ci arrivano minacce dai prossimi conduttori. I prossimi conduttori sono già sulla porta che spingono l'uscio per dire no, ma venire a dire due cose in radio. Vuole entrare in zona rossa anche lei. Vuole entrare in zona rossa anche lei. Dopo essere stata chiamata. Se ti dico che oggi c'è anche Hank in zona rossa, entri. E vada lì. È lì. È lì sotto. È lì sotto. Entrerebbe solo per lui, esattamente. Cico, un commento? Anch'io entrerei solo per Hank. Ah, finalmente! Va bene, va bene. Finalmente nel ritmo. Finalmente nel ritmo. Tremando e lacrimando ce l'ha fatta fare un commento. Incredibile. La prossima volta un po' più. Dai, postura. Esatto. Esatto. Comunque, stavo dicendo. Vai. Non mi ricordo. Il best of di Zona Rossa. No, dopo. No, dopo. Cosa è successo a lui in bagno d'umiltà? Cosa succederà? No, no, dopo. Dopo. chiamiamo qualcuno. No, chiamiamo dopo. Qualcuno. No, dopo. Abbiamo 16 minuti. Chiara, hai il potere di chiamare qualcuno. Anzi, scusatemi, sia Chiara che Gaia, pensate a qualcuno da chiamare. Magari i prossimi invitati. Ha detto certo. Prego. Dovrei passare il telefono. Attacchi il telefono e si tenga pronta. Nel frattempo, ok, mi passa il numero, va bene. Io chiamerò dalla gente, però sappi che questa persona vedrà il mio numero e se non mi conosce magari sti cazzi, ci piace, una risposta che a Zona Rossa si usa spesso. Esatto. E non lo so, siamo qui in 19 e devo dire improvvisare al telefono. In 220 metri quadri, esatto, sempre. 220 metri quadri. Tra l'altro, a quanto ho capito, grazie al programma di Chiara dovremmo soppalcare la radio perché arriveranno a frotte, esatto, a stormi. Ma noi possiamo spacciare questa cosa che verrà presentata a breve. Ah, avete sì, delle date, volete ah, sì, il microfono. Domenica alle 7 lo chiede in diretta. Domenica alle 7? Domenica prossima. Vuoi già avere... Prossima no. Ma ah, la domenica alle 7 penso che sì, sia un'ottima... Dopo le ribelli. Sì, assolutamente. Dopo le ribelli, paura. Sì, sì, sì, perfetto. Bene, il palinsesto di Radio Design cresce, questa giornata è veramente molto fruttuosa. Diventa dire, denso, diventa sì, denso. Un palinsesto denso, molto sì, sì, denso, proprio polposo. Noi rimaniamo morbidi, in questo caso ci dovrebbe essere anche Norberto di due parole, però è andato via. Allora, a questo punto potremmo chiamare il socio di Gaia, che si è dimenticato di telefonare, per cui figuracci in diretta, che Zona Rossa fa anche questo, quindi adesso te lo becchi, lo chiamiamo. Povero Roberto, dove sei? Lui è un compagno che si è giunto da poco, grandissimo attore di teatro. Fatto, voglio dire, ma con un bel ragazzo, insomma, nel senso, che non si poi vi mandiamo la foto sulla chat di Telegram. Esatto. Vediamo, lui mi ha detto che aveva un impegno con i nipotini, che erano i figli della sorella. Ci passi a casa. Pure loro. Esatto. Si sente qualcosa? È successo qualcosa? Non si sente più che fa tutto? Pronto, Roberto? Ciao. Ciao. Sei in diretta, ovviamente, lo sai? Sì, sì, sì. Fantastico. E senti, se vuoi, proprio per abbruciarci le cose al volo, puoi insultare Gaia che non si è più fatta sentire. Qui con noi in presenza la puoi insultare direttamente, digli quello che pensi. Visto che io sono disorganizzata e che tengo a fare le cose, sì, ma non le comunico alla gente, ti chiedo qui in diretta, appunto, se i prossimi, le prossime domeniche alle 7 ci, appunto, mettiamo giù a fare un'improvvisazione teatrale, solo che in diretta radio. Te l'ha venduta benissimo, devo dire. Se non fosse la domenica, con piacere. No, oh, ma come? Così si deve fare. Sì, si deve fare, ma mi piace da morire, però non la domenica. Onesto, però qualsiasi allora altro giorno con piacere. Capiamo il giorno adatto anche con Zona Rossa. Sì, però è una cosa bella, sì, infatti. Poi è in linea con quello che avevi in mente tu di fare. Di cui non ti ha più parlato, però. Diciamolo, diciamolo. Sì, infatti, infatti, raga, io ho bisogno di persone che gestiscano la regia, perché io da sola sono un disastro. Ma te l'abbiamo detto, non c'è problema. Qua quanti ne vuoi? No, ma appunto, raga... Per le prime due o tre puntate, poi serve che qualcuno poi impari il verbo e lo... Camminerai con le tue gambe. Esatto. Impari il verbo e lo diffonda è una cosa che non ci piace tanto. No, ci piace, la radio vuole essere di tutti e di tutte. Vedi, Roberto è un programma, Roberto è un programma, sì, Roberto è un compagno attento, attento e puntuale, cioè certe cose... A diffondere il verbo, insomma, ma... No, non tantissimo. Ma per questo, facciamo un appello a tutte le attrici e gli attori che appunto si vogliono unire alla creazione sia degli scritti, sia appunto al creare il gruppo di recitazione per i radiodrammi. Per farli insieme, tanto qua a Zambo sì, spazio c'è, no? Esatto. Roby, è un appello quello che fa Gaia. Tu quanti registi e sceneggiatori conosci? Una cifra. Ma registi, poi magari sentiamo anche, è nato da poco un collettivo di registi che stanno lavorando sul contratto nazionale dei registi che non esiste. Ah. E quindi hanno fatto un movimento, è nato da pochissimo, da un mesetto, si chiama RAC. E stanno lottando appunto per avere anche loro un contratto nazionale, perché non esiste contratto per i registi, appunto delle tutele anche per le loro figure. Ed è una cosa nuova, perché un collettivo di registi non si è mai visto. Di solito i registi sono molto individualisti ed egocentrici, invece. Ma infatti, scusami un secondo, cioè, quindi chi lavora come regista teatrale in Italia non è inquadrato sotto nessuna forma contrattuale e viene stipendiato come un freelance con mansione di regista? Viene inquadrato, ma non c'è un CCNL, quindi non ci sono delle retribuzioni in base fisse. Viene inquadrato a seconda di come gestisce il teatro alla sua figura. Pensate che roba. Cioè, non ci avevo mai pensato, onestamente. Pensavo che a livello di diritti dei lavoratori fossimo leggermente più avanti. Invece quando li ho conosciuti, me ne hanno parlato loro, non lo sapevo nemmeno io, perché io di solito mi ho inquadrato come attore, quindi non avevo idea. E invece mi hanno detto che il CCNL dei registi non esiste. È una roba assurda. Che roba. Parlo di teatro. Vabbè, quindi se non è la domenica alle 7, si potrebbe fare che tu registri i tuoi interventi, non lo so, tipo la mattina dalle 4 alle 5 del mattino, quando sei solito alzarti, sì, prima di andare a sfornare il pane, prima di fare l'attore, giusto? E poi, poi contribuisci al programma in radio, no? Cosa ne pensi? Sì, ma si può fare, ma facciamo delle improvvisazioni anche pensando al G8, visto che ci piacciono, parliamo appunto del presente. E i radiogrammi tra l'altro saranno registrati, perché chiaramente per portare uno spettacolo o appunto un radiodramma che parli del presente sia fatto bene, c'è bisogno di una costruzione di percorso, ed è quello che anche vorrebbe essere questa radio, proprio un percorso, una dimensione altra che non sia appunto, come avevo detto prima, una dimensione in cui semplicemente si dice qualcosa, ma uno spazio aperto dove le cose si continuano a fare. Penso che qualcuno ti stia suggerendo di tenere il microfono davanti alla bocca. Bravissima, perfetto. Prima lezione tecnica. Esatto, devi davanti al microfono. Ma scusate, io invece faccio un passo indietro, perché sono un ragazzo materialista e ho delle fisse mie. Ma non per insinuare che tu abbia qualche anno, Roberto, ma tu a Genova eri andato, eri con qualche collettivo? No, non ero senza collettivo, ero un ragazzino palermitano senza arte né parte, che era là in mezzo, ma non ero in collettivi, non ero organizzato. Ok, ma quel giorno inviato alle Maide o eri da un'altra parte? Come? Quel giorno eri inviato alle Maide o eri da un'altra parte? No, ero dall'altra parte. Non c'ero. Ero un fricchettone ancora. Diciamo che però per me è un momento veramente importante della storia anche di attivismo, perché a me mi ha portato verso l'attivismo, ma molti attivisti dell'epoca li verso l'apatia. Ed è un momento cruciale della nostra storia importante. Io faccio un paragone con l'Antigone, so che magari insomma siamo un po' fuori tema, però l'Antigone aveva un grande impegno politico, cioè nel senso per suo fratello è andata contro il volere dello Stato, mentre Sosirella Ismene non si era sentita e si è rifugiata insomma nel potere classico, no? Per me a Genova nel 2001 molte Antigone si sono trasformate in Ismene. Beh, ed è un qualcosa che dovrebbe farci pensare. Continua la situazione per cui dicono tutti cose più intelligenti di me, di te, di Cigo. Questa puntata di Zona Rossa è incredibile. È un livello altissimo, non ce lo meritiamo, chiudiamo tutto, basta, spegniamo, niente più Zona Rossa, basta, non si può più fare. No, grazie Roberto. Grazie Roby. Vabbè, e quindi a questo punto speriamo e auguriamo a te e a Gaia di fare un migliaio di cose insieme, e parlate di un sacco di cose di cui non capisco, perché l'Antigone non lo so, per me è via Antigone al massimo, se c'è, se esiste la via Antigone. Ma già affascina. Organizziamoci e ci mettiamo a guerra e pace, dai. Dai, fantastico, fantastico. Allora salutaci i nipotini e ci sentiamo presto. Andiamo all'ortomercato, Roby. Facciamo delle cose più semplici che io posso capire, dai. Esatto. Dai. Va bene. Sta sempre bene. Va bene. Ciao caro. È stato bellissimo. Ciao. Buona domenica. Oh, ragazzi, veramente sono scioccato. Io direi di fare una cosa bellissima. A fine giornata facciamo un post pubblico in cui tagliamo tutte le persone che hanno detto questa cosa, che faranno un programma qua. Dai, ci sta. In mezzo malissimo. Cigo, un commento. Beh, devo dire che il paragone mi è piaciuto tantissimo, da ex classicista, non troppo forte. Grande. Chiara, certo, al microfono. Guarda, va tra gente. Altri ospiti? Attenzione! Un momento molto acculturato, poi anch'io da classicista, non direi molto incallita, però da classicista ho apprezzato molto il paragone. Molto bene. Ci ha fatto vedere le mani quando è andato incallita e avevano veramente i calli. Da 220, i classici calli della classicista, si calli da penna. 220 metri quadri, andiamo a 250, esatto, e chiediamo agli ospiti di salutare. Buongiorno a tutte e tutti. Per la prima volta qua ai microfoni di Zona Rossa, sono molto emozionato. Anche se si vede che è emozionato di esserlo, di essere qui. Niente, andiamo avanti con la puntata. Buongiorno, buongiorno. Io sono Andrea, anch'io molto emozionato di essere ai microfoni di questa meravigliosa radio. Madonna, madonna, che livello! Che livello! Ci stiamo sciogliendo. Meraviglioso, veramente. Meraviglioso. Chi è che possiamo chiamare per abbassare di brutto il livello? 5 minuti. 5 minuti. Dai, 5 minuti. Il più idiotissimo. Chiamiamo Giulione. Giulione che oggi ha voluto intraprendere il suo percorso radiofonico. Bravo. Lo ufficializziamo. Vedi che hai capito. Ma vedi, no, che io ho fatto studiare tutti i soldi che ho speso per farti studiare. Tanti, tanti. Sì, sì, sì, tanti, troppi praticamente. E abbassiamo di brutto il livello con lui. Lui dove sarà? Sarà al Ticinello? Sarà già fatti i fatti suoi? Sarà scartavetrando dei... Ma abbiamo mangiato insieme, era giù fino adesso. Quindi se non andiamo al Ticinello, sarà rimasto qua. Allora ragazzi, come siete presentati? La regola è che se volete parlare parlate al microfono, se no non parlate, e per sentire dovete ascoltare qua dentro quello che si sente e basta, e per tutto il resto è la magia della radio e di Zona Rossa. Esatto, esatto, esattissimo, che noi non avvertiamo le persone prima di chiamarle, chiaramente. Infatti la maggior parte delle volte non ci rispondono. Segreteria telefonica. Ma niente, no, segreteria. No. Ragazzi, ci serve un nome di qualcuno che abbassa notevolmente il livello del momento. Vai. Siamo qua. L'ho fatto apposta. Ma il problema è che non c'è il Allora mi devi mandare sto numero. Ci mandi il numero, signorina? Noi non accettiamo telefoni senza il jack 3,5. E allora... Chi è che chiamiamo, raga? Sul telefono fuori. Nel frattempo. Chiamiamo Nova, che era qui prima poco tempo fa. Chi possiamo chiamare, raga? Bravo io, Giulio, perché secondo me è perché hai chiamato tu. Ma non è vero, ma non è vero. Provano sempre a dire questa cosa che la gente non risponde perché la chiamo io. Dicevi, caro? Al microfono. Che io potrei avere un'ottima proposta per abbassare il livello. Attenzione, della situazione. I minuti ci manda scendono. Ci manda il numero Gaia e poi vediamo. Però mi raccomando, non si dice mai, perché sicuramente all'ascolto, perché più o meno 6 milioni di persone ascoltano questa radio, per cui potrebbe ascoltarci. Ma appunto, essendo in così tanti e tante, non si sa chi sia realmente questa persona. Non devi dire chi è, non devi dire il nome, non devi farlo capire, mi raccomando, è importantissimo. Sta telefonando? Suona? Niente, Giulio mi sa che è impegnato. Starà pedalando. Ci è arrivato il numero da chiamare. La coinquilina. La coinqui. Nel frattempo, oh, è arrivato anche l'attore Tommaso Russi. È arrivato l'attore Tommaso Russi. Tutto un bordello. Quell'attore Tommaso Russi, quante cose da dire. Mamma mia, pieno così di robe da dire dell'attore Tommaso Russi. Nel frattempo stiamo chiamando, possiamo dirlo, Tecla, la coinquilina di Gaia. Non si sente più una mazza, come mai? Probabilmente sta dormendo. Ciao Tecla. È tornato l'attore, bravo. Attore. Lo stava per prendere Kubrick, poi è morto. Kubrick? No, io. Giulio mi ha scritto. Giulio. Chiamo Giulio assolutamente. Vabbè, grazie, siete in 16, non dite niente. Mille. Figa, sembrate cicognini. È vero che siamo lontani, Porco però... Giuda. Chiara, di qualcosa. L'attore finalmente ha ricevuto il suo microfono di proprietà. C'è imbarazzo. Ma è Zona Rossa, devi abituarti a questa cosa. Giulio! Giulio, ci sei? Sa di no, maledetto Giulio, dove sei? Mi ha scritto hey. Tu? A me non risponde al telefono. No. Ma c'è ragione forse allora che non risponde perché sono io? Pezzo di a me ha mandato maledetto un messaggino. Servizio di segreteria telefonica. Risponde 3, qua. Tommaso, dove eri tutto questo tempo? Io ero nella sala prove. No, intendo che hai saltato 3-4 puntate di Zona Rossa. Ero a Padova. A fare? A lavorare su uno spettacolo, una riscrittura della Divina Commedia. Sai che è appena nato un programma che potrebbe fare al caso tuo, come secondo programma ovviamente, non come Zona Rossa. Come si chiama? Retroscena. No, si chiama... un bellissimo nome. Margine. Urca. È molto interessante. Ti consiglio di ascoltare il podcast Confini rurali, esatto, strade, confini rurali, ho fatto il gesto così, ma sei veramente un povero di spirito e un arido umano. Sì. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sono Guglielmo, ti sto chiamando live dalla radio di ZAM, Radio ZM. Mi ha dato il tuo numero Carlo. Dario, chiedo scusa, Dario. Sei in diretta, sì. Dario è qui con me, per cui se vuoi puoi insultarlo. Benvenuto. Ciao carissimo. Ok. Ciao Jack. Pronto, sì. Quindi, come il più classico delle storie, sei stato infamato dai tuoi amici. Pensa bene, quindi, se sono i tuoi amici o meno. Io non so perché ti ho chiamato, e quindi a questo punto ti chiedo, ti faccio fare una domanda su San Valentino. Allora, in realtà c'è una cosa. No, ma che... un secondo, io in questo momento non posso parlare. Cosa? Ma non può parlare, Dario, poverino. No. Cosa stai facendo? Perché non puoi parlare? Valentino. Sono in macchina in questo momento, è un casino. Ah, no, in macchina in questo momento male. Stai spacciando droga come tuo solito oltre confine, vero? Sì, sono... Guarda che è vero, cosa? Non cosa stai dicendo? Per gli amici della postale è uno scherzo. Grazie Chiara, che hai fatto... Va bene, caro, ci sentiamo più avanti. Ricordati di quello che ti hanno fatto i tuoi amici. Ricordatelo bene, eh? Ricordatelo per sì, bene. Va bene. Te lo ricorderai? No, è messo giù, messo giù. Niente, Zona Rossa è andato bene fino agli ultimi 7 minuti che verranno tagliati nel podcast. Ma no, ma perché? Dai, direi io che siamo dico, in linea. Di 15.01 mi viene da fare quello che dice va avanti il prossimo. Va bene così. Il Jack a metà così è un po'. Grazie. Scusa. Niente. E direi che è stata una bellissima puntata. Possiamo fare un riepilogo di quello che è successo in questa puntata per rinfrescare questo pomeriggio bellissimo. Vai, Cigo. Vai, Cigo. Già mi guardavo vai, come. Vai, riassumere tutto con una parola. Vai. No, più di una parola in realtà, perché ci sono stati degli altri momenti di serietà che io non aspettavo. Sì, e invece anche Zona Rossa ogni tanto, per carità, poco, non troppo spesso, non osa troppo. È anche serietà, ma anche un grandissimo disagio, soprattutto per gli ultimi 7 minuti. Che sono molto Zona Rossa. Che sono molto Zona Rossa. Diciamo proprio l'emblema. Gli viene chiesto l'accendino mentre sta parlando al microfono, giustamente. Vabbè, giustamente. Devi riuscire a farlo. Mi vuoi cioè... mettere in difficoltà. Va bene, adesso le il riassunto? Il riassunto? Il riassunto. Che nuovi programmi vedranno luce grazie alle telefonate di Zona Rossa? Sì. Ottimo. Forse la domenica alle 7, ma in realtà boh. Vediamo, ci pensiamo. Poi ci sarà lo spin-off di Zona Rossa dedicato al cinema. Non è stato dichiarato perché la persona indicata non ha risposto al telefono. È stato accennato. Però... poi qual è che mi sto perdendo? Best of di Zona Rossa. Vabbè, ma quello immagino sia un podcast. Sarà un podcast. Vabbè, ho capito. Allora non lo annunciamo. Fanno schifo i podcast. Ok, esatto. Non li facciamo più. Best of di Zona Rossa. Che schifo, veramente. Cigognini, sono allibito. E poi? E poi, vabbè, gli studenti. E quindi? E quindi loro che ci seguiranno nelle prossime settimane con gli appuntamenti sull'antifascismo. Perché non l'abbiamo detto prima, ma. Come dire, saranno programmi in co-conduzione con gli studenti della rete Student Milano, pardon, errore mio. E nulla, quindi. Vedi, molto bene, dai. Sudando ce l'hai fatta. Però vedi, Lorenzo, questa cosa qua, la facciamo finta che lui non ci sia adesso. È difficile, però. Vedi che, però, quando lo metti sotto pressione, lavora bene. Sì, vedi che quella cosa della frusta che ti avevo detto settimana scorsa, no. Vedi che. Era una buona idea. Fa vedere i segni. Ce lo picchi ogni tanto. Guarda che funziona meglio. Va bene. Zona Rossa anche questo. Facciamo salutare tutte le 16 persone che ci sono in studio. Prego, salutate, dite il vostro nome. Ciao, sono Chiara. Grazie a tutti e tutti per l'ascolto. Ci vediamo alla prossima puntata di Zona Rossa. Sperate. Ci vediamo in radio. È l'espressione giusta. Ciao. Io sono Andrea. Ci vedremo nelle prossime settimane. Ci vedremo. Ce la fa anche lui adesso. Ciao, io sono Dario e invece... Sentiremo quello che è, però ma qua io me la tiro da classicista, poi viene a dirmi queste cose, però. Sono Gaia e collaboreremo insieme nelle prossime puntate a Radio Margine, a Radio ZAM, Radio Zona Rossa e tutto quello che abbiamo da dire. Oggi c'è il socialismo, è ufficiale, vinceremo. Vi lasciamo a questa bellissima domenica in compagnia radiofonica. Se vi capita di passare per Milano Sud, siamo qua. Che dire, buon pomeriggio tu a tutti. Tu comunque sei Lorenzo, tipo. Io sono Lorenzo, lui è Guglielmo. Ciao. Grazie Cigo. Ciao Cigo. Grazie all'attore Tommaso Russi, grazie a tutti Tommaso quelli Russi. Che sono passati. Grazie Roberto, grazie Hank. Grazie Giulio che non hai risposto. Ciao Ne. Ciao. Bye.